ritrovati, ben ritrovati. Dopo due anni, numerosi tentativi di far ripartire il programma, siamo tornati. Chi siamo? Allora, io sono Mr. Rude. E io sono Corapus. Allora, un po' di novità rispetto alle edizioni passate. Sì, innanzitutto direi il nome della trasmissione, che è fondamentale. Beh, sì. Resta lo spirito, ma cambia il nome. Tutti voi, impossibile diversamente, ricorderete l'angolo del Corapus, che andava su Radio Altro Lamezia, la Buonanima. Bella esperienza. Siamo divertiti. Adesso invece abbiamo deciso anche di cambiare il nome della trasmissione, e appunto il nuovo nome è Nichilismo e Fastidio. Adesso poi nel corso di questa puntata zero vi spiegheremo anche il perché. Proveremo. Sì, sì. In realtà è una puntata zero che probabilmente non ascolterà nessuno, quindi però è tutto un discorso fino a se stesso. Per gli addetti ai lavori. Esattamente, tipo. O magari no. È una specie di esamino, diciamo, no? Sì, sì. Per le puntate pilota della televisione. Un po' di roba, sì, in base a quanti spettatori faremo, sì, poi decideranno se la nostra sorte possiamo andare radioconica in onda. Allora, innanzitutto questa volta andremo in onda sulle frequenze di transizione di fase, che è una web radio esistente, esiste da qualche tempo. Il sito per ascoltare la radio è www.transizionedifase.org. Appunto è una web radio, quindi non esistono vere e proprie frequenze, ma la potete ascoltare attraverso il sito. Mentre per c'è quanto il riguarda blog, i nostri contatti, abbiamo nichilismoefastidio.blogspot.com, e poi ci trovate anche su Facebook. Ci aggiorneremo man mano, quindi. Sì, di volta in volta, poi come sempre le vostre idee per spunti la trasmissione, va bene tutto. E il gruppo su Facebook. Sì, prima di entrare nel vivo della trasmissione, magari partiamo spiegando quello che è stata la scelta anche del nome. Direi di partiamo in allegria o partiamo in tristezza, non saprei. Se dobbiamo tener fede al nome del programma, partiamo in tristezza. Allora, sì, sì. Facciamo qualcosa di introspettivo sulla morte per cominciare. Giusto, proprio così, per far in allegria, un voglio po' dire. Lo allora, spirito del programma. Potremmo allora direi che questa canzone è perfetta. Partiamo con Branduardi. La canzone è Ballo in fa diesis minore. Noi ci sentiamo tra pochi. La morte e porto corona, io son di tutti voi, signora e padrona, e così sono crudele, così forte sono e dura, che non mi fermeranno le tue mura. Sono io la morte e porto corona, io son di tutti voi, signora e padrona, e davanti alla mia falce il capo tu dovrai chinare, e dell'oscura morte al passo andare. Sei l'ospite d'onore del ballo che per te sogniamo, posa la falce, danza tondo a tondo, giro di una danza e poi un'altra ancora, e tu del tempo non sei più signora. We'll be right back. Per la cronaca stiamo trasmettendo dalla mia cameretta, tipo sì. Bellissimo. Che effetto fa? Mettiamo anche la foto. Che effetto fa essere ritornati a... in radio? È divertente, ne parlavamo da un sacco di tempo effettivamente. No, tipo, che poi come andava, sempre andava, è sì, colpa mia. Cioè, okay? Se tu che vuoi fare le cose però aspetti ma me. Ma vabbè, che... ma io propongo comunque anche un sacco di cose e poi non concludo niente, cioè, no, no. Però mi sono deciso. È la storia della mia vita, voglio dire. Perché la gente che non ha mai fatto radio non può capire quanto è bella la radio. Poi ti convincerò anche a tornare a giocare a rugby in realtà, però già poi in realtà a settembre una rubrichina sul rugby tipo 5-10 minuti a puntata. Vabbè, ci comunque, possono anche parlavamo stare. Cioè, oddio, tu me lo proponevi per la 17ª volta di fare radio, io ti ho detto di sì. Abbiamo cominciato a discutere sul nome, ovviamente, perché Angolo del Corpus non andava più bene, visto che questo è già dall'inizio più cooperativo, no? Sì, un programma era divertente il nome, nel senso sì, era vabbè. Qualcosa di molto scherzoso. Era un'altra cosa. Vabbè, diciamo anche che in realtà sì, lo spirito va bene, resta quello, però magari ci siamo messi in conto anche di prendere la trasmissione oltre che da un punto di vista magari ironico e divertente come facevamo prima, anche da un punto di vista un pochino più esistenziale, mettiamola così, cioè per quanto esce dal titolo, nel senso provare anche comunque sono passati 2 anni, siamo più vecchi, ci avviciniamo ai 30, quindi ci sta anche molto più disillusi, direi, rispetto a tutto ciò che ci circonda. Sì, forse lo ero anche 2 anni meglio, fa, però poi ognuno parla per sé. Sì, in effetti, cioè, sì. Senza usare il plurale. E quindi ti ho proposto, quando parlavamo di questo titolo del programma, a me ovviamente mi è venuto in mente questo titolo che io uso da un bel po' di tempo, prendendo la frase nichilismo, pessimismo e fastidio. Io l'ho ribattezzata subito nichilismo e fastidio, perché è una frase che mi rappresenta, e quindi cercavamo il titolo e io l'ho proposto a Mr. Rudo e ho detto: che ne pensi di questo quindi, nuovo titolo? Visto che sei stato tu a proporla, come minimo ti lascio anche l'onore. No, io volevo della prima, fare della prima dispiegazione. Volevo dire, fare un'altra cosa invece. Mi dica cosa significa? Diciamo che non abbiamo preparato no, un ovviamente cazzo, ruota libera. Ruota libera, come viene. Però queste cose ci sarebbero state comunque, no? Giusto spiegazione della. Volevo fare un'altra cosa, l'inverso. Cioè, a una persona che non sono io, cosa suscita? Cosa vuol dire per te? Cosa hai pensato quando ti ho proposto nichilismo e fastidio? Come l'hai interpretato? Personalmente, no? Sì, sì. A me devo dire che è piaciuto per svariati motivi. Innanzitutto partendo dal presupposto che in questi 2 anni anche la mia personale visione del mondo è abbastanza cambiata, nella misura in cui quando stavamo dentro la radio Oltre la Messia era comunque un'esperienza militante, era un progetto più ampio, era un'esperienza politica, c'era il collettivo che c'è ancora, cioè ne sono uscito io, comunque era un'esperienza politica, facevo militanza politica, poi sono successe tante di quelle cose nel frattempo, cioè esperienze sia per strada ma anche cambiamenti personali, cambiamenti di visione del mondo, di conseguenza tendo molto di più ormai ad avvicinarmi a quello che è perlomeno la mia visione del concetto di nichilismo, e poi ritengo che fastidio sia in realtà la conseguenza logica del nichilismo. Non può esistere l'uno senza l'altro. Il fastidio lo si trova nel momento in cui da buon nichilista ti accorgi che tutto ciò che ti circonda è effettivamente falso, effettivamente costruito, che il mondo ti viene costruito attorno da questo punto di vista, cioè ti vengono imposte le regole, ti vengono imposte i valori, ti viene imposta la morale, e soprattutto il fastidio deriva dal fatto che sia, perlomeno io ho la consapevolezza che da questo punto di vista nulla può cambiare, cioè non credo più nel cambiamento, quindi mi ci ritrovo parecchio da questo punto di vista. Poi è un discorso molto più ampio che affronteremo certo. Un po' alla volta nel corso delle varie trasmissioni, devo dire. E quindi insomma ti è piaciuto come titolo e l'abbiamo adottato. Ora magari facciamo poi ti spiego il mio. Sì, infatti mettiamo una canzoncina e poi spieghi il tuo. Vuoi presentarla tu? Sì, questo è Nick Drake, un grande cantautore morto prematuramente. La canzone è dal primo album Pink Moon, Place to Be. Thank you. the truth hanging from the dawn. No more see face to face. Però non ci fate troppo caso. Allora, eravamo rimasti che adesso è il turno del Corapus di spiegare Michelino e Fastidio, che è un po' la storia della sua vita. Della mia vita, sì, perché ci conosciamo da un bel po' di anni. In realtà è creato dalla scuola materna, in realtà. Sì, poi ci sei fatto un anno, poi sei andato dalle suore, non so dove cazzo sei andato. Sono andato, a 5 anni è difficile, cioè, mi ci hanno portato, però comunque c'è stato un buco, poi ci siamo ritrovati più in là. E quindi hai potuto vedere che nel corso di questi anni ho affrontato varie ideologie, cioè sono stato un po' in un modo, un po' in un altro. Beh, in fondo questo è dovuto alla mia irrequietezza. Quando abbiamo preso la tessera del partito avevamo... Vabbè, eravamo giovani, eravamo disillusi, cioè eravamo ancora... Pensavamo errori di gioventù. Ma ci vuole di poter cambiare il mondo come avevamo pensato... Errori di gioventù, tipo manifestazioni, cose. Sì, io un po' di meno, perché già da allora ero comunque il mio carattere nichilista asociale, veniva fuori, però. E piano piano sono arrivato sempre più al nichilismo, alla consapevolezza che questo mondo così com'è non mi piace, non va bene. Però il nichilismo sta nel fatto che a me non importa costruire, sapere cosa c'è un domani. Io non voglio essere propositivo e dire: ok, faccio la rivoluzione perché dopo ci deve essere il proletariato, chi per lui. A me non interessa. A me interessa semplicemente smontare qualsiasi valore sociale, etico, qualsiasi cosa esso sia. E il fastidio non serve cioè non è nient'altro che un rafforzativo del nichilismo. Provo fastidio. È insito nel nichilismo provare fastidio per qualsiasi cosa. E da qui nichilismo e fastidio. Anche, cioè, partire dal presupposto che i concetti, quegli stessi concetti che vengono usati sia quei concetti che vengono usati per tentare di cambiare il mondo, penso innanzitutto per esempio allo stesso concetto di rivoluzione, di rivolta, di ribellione. Poi se analizzati con coscienza, se analizzati poi nella sostanza, in realtà risultano essere concetti anche profondamente reazionali rispetto... Infatti, il potere ringrazia, perché questo qua ci fa sfogare. Questo qua è il discorso principale. Io penso per esempio, che ne so, a quelli in Val di Susa, o a tutte le altre, perché adesso è vicino, ma penso a tutte le altre manifestazioni in Italia e nel mondo. va benissimo il perché queste manifestazioni si vanno a fare. C'è di base la componente della ribellione rispetto allo status quo, però in realtà probabilmente manca un passaggio successivo, che è un passaggio probabilmente intellettuale, nel senso che sono quei pensieri che, di cui non sono in fondo capace nemmeno io, in cui solamente i grandi intellettuali nella storia poi riescono a capire quali sono le vere contraddizioni all'interno della società. E ancora probabilmente questa contraddizione di base per cui il potere non fa altro che sfruttare la ribellione per avere ancora vantaggio, più legittimazione, non è stata mai ben compresa e teorizzata, anche perché forse si ha paura di trovare un ulteriore strada alternativo, o addirittura di arrivare alla conclusione che strade alternative non ce n'è, se non forse quella del ritorno davvero allo stato di natura, nel senso proprio locchiano del termine, per dire torniamo a vivere in piccole comunità dove autogestiamoci, un po' il principio delle comuni degli anni 70, mettiamolo così. Sì. O ancora più mettere anche in discussione il fatto che l'uomo non sia per forza di cose un animale sociale, ma che la vera realtà dell'uomo, il vero essere dell'uomo, poi lo si trova solamente attraverso un sano individualismo, che non vuol dire asocialità, ma vuol dire una comprensione di sé per potersi poi meglio rapportare alla società, e non contrariamente invece sciogliersi nella società senza avere realmente una propria identità, ma andare a cercare identità un po' da ogni che è quella parte. A cui aspira il potere. Sì, lobotomizzarci tutti, burattini in mano loro, e farci fare quello che voglio. E quindi inconsapevolmente, perché noi crediamo di essere liberi. La bravura sta in quello. La bravura sta nel di essere dei ribelli, degli anticonformisti, invece facciamo soltanto il gioco loro. Cioè, anche noi che stiamo dicendo queste cose, siamo in realtà non siamo profondamente niente schiavi di rivoluzionario, siamo dei burattini come voi. Non ci riteniamo senso superiori a nessuno, voglio dire. Siamo consapevoli di ciò che siamo. Abbiamo la presunzione, però, di ritenerci nichilisti anarchici, cioè, io personalmente. Nemmeno del ritenersi nichilisti anarchici, più che altro è un modo come un altro per sfogarsi, per poter dire agli altri ciò che si pensa, però senza aspettarsi niente in cambio. E tutto questo in fondo poi ti va a provocare quello stato quando ci pensi un po' troppo di ansia perenne, voglio dire sì. E quindi a questo punto ci sta bella questa canzoncina. Ah, premetto anche che il prog italiano sarà guida della maggior parte delle nostre trasmissioni, anche immagino, pensiamo dire. Una puntata monografica, sì a parte quella se lo merita. Quindi adesso cominciamo con un grande gruppo del prog italiano, di cui poi Cora ci racconterà anche un po' di storia dopo. Loro sono i Biglietti per l'Inferno, e questo, visto che ne parlavamo appunto, è Ansia, grandissima canzone. Noi ci risentiamo tra poco. Thank you. canzone era L'Ansia. Piccolo aneddoto sul biglietto per l'inferno. Sì, il cantante adesso è un prete, un monaco. Sì, quest'album era un concept album sulla, cioè, che criticava il pensiero cristiano cattolico, no? Sono diverse canzoni. Lui chiedeva ad un prete: ma perché mi giudichi? Ho peccato quando ad esempio ho rubato per dare i soldi a chi non ne aveva. E poi alla fine è successo che anche lui ha visto la luce, l'illuminazione, è passato dal lato scuro della forza. C'è un po' questa cosa, possiamo riprendere, lo facciamo già all'epoca dell'angolo del corpus, anche lo stesso percorso di Giovanni Ferretti, no? Sì. Questo misticismo, questa religiosità che attrae in vecchiaia, forse più si avvicina effettivamente. Forse ancora noi siamo giovani, non capiamo, oggi o domani. Potrebbe essere data tanto dalla paura, tanto dalla... della morte. Bisogna vedere come vivi il rapporto con la morte. Beh, magari forse all'età nostra è anche giusto non pensarci, non averne paura. Beh, in realtà io per esempio ci penso spesso alla morte, perlomeno alla mia, voglio dire, è una cosa che mi lascia totalmente indifferente. Non dovrebbe essere mai una cosa che ti fa paura. In realtà è parte integrante della vita, cioè non credo sia data più dalla paura della morte questo cambiamento. Probabilmente è anche un frutto di un percorso estremista, nel senso che probabilmente per partito una lato... persona che è sempre stata estremista, sì, è molto più facile arrivare all'altro estremo per non fermarsi in mezzo. Cioè, sempre visto come se fosse sferica la cosa, no? O meglio, se fosse una circonferenza. Gli estremi stanno vicini tra di loro, in realtà. Basta invertire il senso di marcia e ti ritrovi all'altro estremo piuttosto che andare verso il centro. Succede spesso nella vita, nella religione, nella politica. Sì, ma anche perché quando uno per tanti anni ha militato, ha appoggiato determinati pensieri, si accorge a 40 anni che era alla fine. Erano idee, giustamente, essendo ad un estremo, qual è la cosa più facile? Andare all'altro estremo. C'è la disillusione. È la disillusione che ti porta all'altro estremo, dici, ma... A volte disillusione, a volte sono anche spesso gli interessi, accorgersi che non vale la pena lottare senza scopo per la mia vita. A volte succede anche questo. Poi la politica, da questo punto di vista, è l'esempio più eclatante che esiste. Alla fine tanti artisti, tante persone hanno fatto questo percorso di vita, ed è una riflessione che potrebbe risultare interessante, chiedersi cosa spinge le persone effettivamente a... Dovremmo chiedere a qualcuno. Beh, ne conosciamo parecchi in realtà, cioè, in quel di Lamezia, voglio dire, soprattutto per quanto riguarda la classe politica, potremmo chiederlo a un sacco di gente che è passata tipo da lotta continua a poter operare all'UDC, al PDL, all'UDC, cioè, UDC, PDL, abbiamo esempi a non finire da questo punto di vista. E quindi anche questo potrebbe essere un ulteriore spunto poi per le trasmissioni che verranno a seguire. Poi ripetiamo, proponete argomenti. Andate sul blog o sul gruppo di Facebook di Prisma e Fastidio Web Radio Program, scrivete. Sì, mandateci a fanculo, non è un problema, nel senso siamo aperti a qualsiasi tipo di proposta, anche se poi tipo non la calcoliamo la proposta vostra, dire, però la prendiamo, la guardiamo, in considerazione, sì, non la guardiamo, poi valutiamo. Se voi ci dite fate una puntata su Britney Spears, noi facciamo una puntata su Britney Spears, oppure però la possiamo fare parlandone male, umiliandola, sì, per un'ora. Il principio potrebbe essere anche quello, però non penso che qualsiasi persona ci ascolti poi ascolti Britney Spears, non penso. No, spero nessuno di quelli che ci ascolti. Mi sa che faremo una scrematura iniziale. Vorrebbe dire che abbiamo sbagliato il modo di impostare la trasmissione, voglio dire. D'altronde è così. Prima di mettere l'altra canzone, mi preme salutare un amico, che oggi purtroppo mi hanno detto che non c'è più, Ciccio Svelo, che è tra i fondatori della radio. Ancora non si è ben capito cosa è successo, l'hanno ritrovato a casa sua, era un grande compagno, Ciccio era un grande compagno, quindi lo saluto. E adesso andiamo con l'altra canzone, poi torniamo in studio. Questa è Luigi Tenco, la canzone è Io sono uno. Io sono uno che parla troppo poco, questo è vero. Ma nel mondo c'è già tanta gente che parla, parla, parla sempre, che pretende di farsi sentire e non ha niente da dire. Io sono uno che sorride di rado, questo è vero. Ma in giro ce ne sono già tanti che ridono e sorridono sempre, però poi non ti dicono mai cosa pensano dentro. Io sono uno che non dice chi è la sua donna, questo è vero. Perché non ammiro la gente che prima implora un po' d'amore e poi non appena l'ha avuto lo va a raccontare. Io sono uno che non nasconde le sue idee, questo è vero. Perché non mi piacciono quelli che vogliono andare d'accordo con tutti e che cambiano ogni volta bandiera per tirare a campare. Poi dentro dei migliori non ci sono più. Dovremmo stato parlarne così lungamente di te, sarebbe da parlare. Avremo tutto il tempo da questo punto di vista. Ricordo che comunque questa è la puntata zero, non l'ascolterà nessuno, quindi. Non è detto. Sì, al massimo faremo ascoltare a qualcuno, giusto anche per avere qualche giudizio da questo punto di vista. Penso. Ho fatto una mezz'oretta, ci facciamo altri 10 minuti, sì, e poi sì, durante l'anno tanto ci sarà del intorno a un'oretta, penso, almeno, come facciamo. Dipende dai risponsi anche. Un'ora, un'ora e un quarto, un'ora e mezza, vedremo poi quello che c'è da dire e quanto c'è da dire. L'ultimo argomento prima di salutarci è... Che poi si ricollega a quello di prima. Sì, restando anche al discorso. Non dell'individualismo, del concetto di nichilismo, un po' discutere di quello che è successo in Norvegia. Vabbè, lo sapete tutti, la cronaca ve la risparmio. Comunque, ragionare sul perché. Si è detto che questo qua era un fondamentalista cristiano, era un po' fuori di testa, era un neonazi, tutto quello che volete, però anche qui secondo me, poi non so se tu sei d'accordo, voglio dire, secondo me in realtà quando succedono queste cose è più l'estremizzazione contraria del concetto di società opprimente di cui parlavamo prima, per quelle nordiche in particolare. Esatto, in questo senso c'è le civiltà scandinave in particolare, ma in generale i paesi freddi, c'è un po' questa cosa. Ne parlavamo quella volta, proprio della funzione del sole, che sì, potrebbe essere. C'era una teoria, sì, non mi ricordo chi lo diceva adesso. Che il sole influisce. Il sole influisce sull'umore di un popolo. E quindi proprio questa cosa in realtà potrebbe essere proprio l'estremizzazione di un individualismo esasperato che. Le società. Se vuoi metti una canzone, non lo so, dimmi tu. No, le società scandinave funzionano. Sono quelle le migliori da tutti i punti di vista del mondo. Però c'è il contro, che funzionando così bene c'è un livello di, appunto, come dicevi tu, di oppressione comunque. Di individualismo davvero esasperato, e spesso potrebbe anche essere, secondo me, la causa principale di ciò che è successo. In realtà è questo, voglio dire, un gesto folle, però provocato da chissà quali pensieri che ti meditano nella testa un po' alla volta, anche perché spesso non si ha nemmeno la possibilità di sfogarli determinati pensieri, anche perché in realtà l'estrema libertà che c'è nelle società scandinave, pensa che il premier norvegese ha detto: nonostante quello che è successo, qui tutti continueranno ad avere diritto di estrema libertà di parola, sì, anche delle idee più estreme, finché queste non diventino violente. In realtà è tutta una società che è difficile realmente comprendere, però è anche molto affascinante da questo punto di vista, almeno per quanto mi riguarda, soprattutto il concetto di individualismo che c'è nella società scandinava è il più avanzato in assoluto. C'è un individualismo, può certo degenerare, però è un individualismo sano, nel senso, non è un individualismo che ne so, esclusivamente ascetico, un individualismo di quelli che costruiti, la gente ama la solitudine, ma nel contempo sa vivere in società, cioè, e a volte sono portati per forza, cioè, sono situazioni in cui hai una casa a distanza di chilometri, stai in un bosco, e quello ti porta comunque ad avere delle riflessioni, no? Qualcosa con di te stesso, avere il buio per 12 mesi, esce, c'è il sole alle 12 di notte, tutto un mondo. Sono società particolari, hanno anche storie particolari comunque. A giudicare siamo tutti bravi. Hanno però, la mitologia più bella che esiste, non c'è niente. Vabbè, questo bello poi, come la mitologia nordica. Però in realtà, no, non è così lontano il discorso della mitologia, perché in realtà loro hanno poi molto questo anche concetto di. L'individualismo è dato anche dalla loro mitologia, che è una mitologia che puntava molto sul concetto, per esempio, di singolo eroe, di singolo individuo che cambia, che riesce a sconfiggere il tutto da solo. Mentre se ci pensi, le nostre mitologie sono mitologie molto più sociali, anche quella greca romana alla fine. Sono mitologie molto più politiche, gli dei alla fine, civiltà, ogni popolo poi è sempre il frutto anche della propria storia, della propria e del proprio tutto. Beh, detto questo, metti un'altra canzoncina, poi ci salutiamo. Mettiamo una canzone. No, vabbè, dopo aver parlato della Norvegia, Mannarino non ci sta bene, quindi propongo i Doors con People Are Strange, che invece ci sta molto bene, visto che abbiamo parlato di questo pazzo fottuto individualista. E loro sono i Doors, e noi ci risentiamo tra poco. People are strange when you're a stranger, faces look ugly when you're alone, women seem wicked when you're unwanted, streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange. When you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. All right, yeah. Siamo in dirittura la puntata zero, è già finita. Sì, sono passati questi 40 minuti in tranquillità, però in realtà per la cronaca diciamo che siamo qua dalle 3 e un quarto. Perché cerchiamo per riuscire a configurare il tutto. E poi alla fine, come sempre, si è risolto da solo. Riavvio il PC e va tutto. Così come quando dico, ah, mi fa male qua, dormi e ti passa tutto. Alla fine è così. E niente, quindi diciamo, siamo addirittura d'arrivo. Questa è stata la puntata zero. Non so quanti di voi l'ascolteranno, perché ripetiamo, comunque è una puntata che è dedicata un po' agli addetti al lavoro, perché comunque Transizione di Fase è una web radio che vive in maniera collettiva, ha delle regole di fondo che noi innanzitutto rispettiamo, come l'antifascismo, l'antirazzismo, l'antisessismo, ma anche parlavamo l'altra sera proprio con un altro correnato, che è un altro ragazzo che trasmette, sta cercando anche di aumentare il livello qualitativo dell'audio, giustamente, perché è una radio che sta crescendo, quindi la puntata zero serve anche per migliorare, dove si può andare a parare. Noi torniamo a settembre adesso. Sì, l'appuntamento fisso dovrebbe essere un giorno da decidere della settimana, a settembre. Sempre in orario serale, sicuramente. Da decidere con la radio questo. Quindi poi, vabbè, adesso vi lasciamo, è agosto, ognuno si fa le proprie vacanze, me ne vado in Croazia, la faccia vostra. Beato te. Mentre poi a settembre si ritornerà per bene. Alla routine. Si ritorna, ricomincia fortunatamente la normale vita di tutti i giorni e ricominciamo anche noi dopo ben 2 anni di assenza. E niente, ringraziamo tutti quelli che ascolteranno questo podcast, tipo i miei nipoti, questa registrazione, sì. 40 anni. Io ho sempre tutte le trasmissioni, intanto le riascolto, roba seria. Poi vedremo, magari ogni tanto invitare anche qualcuno. O mandare qualche spezzone. Sì, perché no? E tipo con PPS. Con il mitico PPS. Sono robe ad alti livelli. Ti lascio scegliere l'ultima canzone della nostra playlist. Chiudiamo con qualcosa di un po' di rock, visto che vabbè ci sono appena stati Doors. Comunque va con un classicone. Chiudiamo con i Creedence Clearwater e Put a Spell on You. E quindi alla prossima. Non si sa più con te, sicuramente a settembre. Un saluto da Corapus, da Mr. Rude. Speriamo di aver passato anche l'esame, no? Cioè, visto che in fondo un po' anche lo era. Sì, va bene. Salutiamo tutti gli amici di Transizione di Fase, visto che comunque ci giudicheranno, la commissione giudicante. Vedremo di mandare anche, non so, tipo cestini di frutta, salame, una provola, tu qua. Quindi vedremo anche di corrompervi in questo senso. E noi ci sentiamo presto. Grazie a tutti per averci ascoltato. A risentirci con Nichilismo e Fastidio.